il corpo ti muovi pensi a lasciarti. In ogni modo Olga l'ha rimesso le ali, e ha rimesso le ali. Italia, Sardegna, provincia di Carbone, Iglesia, ovunque andiamo noi Galizegna. La strada non ha metrica ma il cuore batte le mare. Non importa il colore, quel che importa è sognare. Ci sono sempre 100 situazioni che ti portano alle ragioni. Quanto basta per parlare, ridere e scherzare. Ridere e scherzare, scammi istade. Ti muovi, pensi a lasciarti. In ogni modo Olga l'ha rimesso le ali, e ha rimesso le ali. Italia, Sardegna, provincia di Carbone, Iglesia, ovunque andiamo noi Galizegna. La strada non ha metrica ma il cuore batte le mani. Non importa il colore, quel che porta è sognare. Ci sono sempre 100 situazioni che ti portano a nazioni. Papà basta per parlare, ridere e scherzare. Ridere e scherzare, na na na na na na na na na na na na. Yeah. E poi fate tutti i tagli che...